24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi il Consiglio europeo che si conclude a Bruxelles. La crisi greca e la governance economica europea sono il piatto forte di un menù di emergenza, mentre ad Atene i sindacati annunciano uno sciopero di ben 48 ore nei giorni del voto della prossima manovra di austerità. L'Europarlamento sfida intanto i 27 proprio sulla governance, rinviando un voto cruciale sulla riforma del patto di stabilità. Buone e cattive notizie. Notizie per l'Italia. Mario Draghi si avvia all'investitura ufficiale come prossimo presidente della BCE, mentre dopo i nuovi dati al ribasso sulla crescita italiana di Confindustria, il presidente della Repubblica Napolitano chiede un abbattimento del debito nel quadro delle direttive comunitarie. Chiuderemo questa edizione con la storia di due talenti musicali italiani al loro secondo album, frutto di contaminazioni molto europee. In apertura dunque il vertice dei 27 leader dell'Unione Europea, ieri sera si sono aperti i lavori e i temi sul tavolo nel servizio. Non sarà un vertice di grandi decisioni sulla Grecia, ora la parola è al Parlamento di Atene che martedì dovrà dire sì o no alle nuove misure per mettere definitivamente ordine nei conti pubblici e nell'economia, varare il piano di privatizzazione forzata. Prendere o lasciare, ai capi di Stato e di governo europei non resta che esercitare una forte pressione politica e naturalmente incrociare le dita. Per stasera a tarda ora è attesa invece la nomina di Mario Draghi a presidente della Banca Centrale Europea dal 1 novembre. L'attesa è nomina per acclamazione. Nonostante i mal di pancia francesi irritati perché la promessa di Berlusconi a Sarkozy che il membro italiano del board, Bini Smaghi, lascerà il posto libero, non si è ancora materializzata. La gestione dell'avvicendamento è stato malamente gestito sia da parte francese che da parte italiana e lo stesso Trichet ha dovuto ribadire che l'indipendenza dei banchieri BCE è sacrale, semplicemente non prendono ordini dai governi. Infine il meccanismo permanente europeo di stabilità che dal 2013 emetterà bond per i paesi che finiranno come Grecia, Irlanda e Portogallo. L'accordo sulle regole è già stato trovato all'Ecofin. Da Radio Corte, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Antonio Poglio Salimbeni, Bruxelles. Riunione ristretta a tre sulla crisi della Grecia ieri pomeriggio a Bruxelles, appena prima del Consiglio europeo, tra la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Nicolas Sarkozy e il presidente dell'Unione Herman Van Rompuy. Prima Atene deve aiutarsi da sola, poi l'Unione Europea potrà intervenire, questo è il messaggio lanciato dal commissario agli affari economici Olli Rehn. E le principali federazioni sindacali greche hanno convocato intanto uno sciopero generale il 28 e 29 giugno in concomitanza con la discussione e il voto in Parlamento del piano di tagli disegnato dal governo socialista di Gheorghe Papandreou. Si tratta del quarto sciopero generale quest'anno contro i piani d'austerity, ma stavolta di durata doppia, 48 ore. Il nuovo premier portoghese di centrodestra Pedro Passos Coelho ha assicurato a Bruxelles che il Portogallo non sarà per l'Europa una nuova Grecia. L'85% del Parlamento lusitano è convinto della necessità di applicare il programma concordato con Europa ed FMI. Ci sono tutte le condizioni perché il piano sia un successo, ha detto Passos Coelho. Il Parlamento europeo sfida gli Stati membri sul rafforzamento della governance economica. La maggioranza degli eurodeputati ha infatti deciso il rinvio del voto sul pacchetto di misure, tra cui la riforma del patto di stabilità. Questo nonostante i ministri finanziari abbiano messo a punto un nuovo compromesso per venire incontro alle richieste di Strasburgo. Tuttavia i parlamentari giudicano insufficienti le novità proposte. Lo scontro principale riguarda il grado di automaticità delle sanzioni per i paesi non virtuosi. Nuovo grido d'allarme di Confindustria sulla crescita italiana. Il centro studi di Viale dell'Astronomia ha rivisto al ribasso la stima per il 2011 allo 0,9%, avvertendo che senza riforme strutturali nel 2012 il PIL accuserebbe un'ulteriore frenata, portandosi a più 0,6% rispetto alla stima precedente dell'1,1%, un tasso nettamente inferiore alla media europea. Intanto il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, lancia un nuovo monito: un abbattimento del debito pubblico nel quadro delle direttive europee è un impegno ineludibile del nostro paese. Ma sentiamo ora la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Noi siamo assolutamente d'accordo, come sapete lo diciamo da molto tempo, noi pensiamo che questa manovra vada fatta subito, deve essere una manovra di taglio di spesa pubblica, di strutturale come abbiamo detto prima, abbiamo preso degli impegni con la Commissione europea, abbiamo preso impegni con il Parlamento italiano, quindi questa manovra va assolutamente fatta. Quando sento dire da qualcuno il paese non può sopportare una riduzione di spesa pubblica, questo tipo non è vero, lo stanno facendo tutti i paesi, l'ha fatto la Germania in passato, lo stanno facendo in Inghilterra, quindi questa manovra va fatta assolutamente, quindi noi concordiamo totalmente con l'appello del presidente Napolitano. E ascoltiamo invece ora i mercati con la borsa. La crescita dell'economia mondiale rallenta e le borse europee vanno a picco. Se Londra, Francoforte e Parigi sono riuscite a contenere le perdite nell'ordine del 2%, Milano, Madrid e Atene si sono avvicinate al 3%. A preoccupare non è più soltanto il debito della Grecia, che sarà al centro anche dell'Eurogruppo di questo fine settimana. I problemi dell'Europa si sommano a quelli degli Stati Uniti e anche la Cina mostra qualche segno di rallentamento. La Fed, la banca centrale americana, infatti ha tagliato le stime di crescita dell'economia. Il PIL degli Stati Uniti quest'anno salirà, ma meno del 3%, e il tasso di disoccupazione sarà vicino al 9%. La Cina, che aveva attraversato quasi indenne la crisi, da parte sua vede l'attività manufatturiera scendere ai minimi da quasi un anno. I tre motori dell'economia mondiale, Cina, Stati Uniti ed Europa, appaiono dunque in difficoltà in questo inizio d'estate, e anche le borse mostrano segni di nervosismo. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il segretario della PD Pierluigi Bersani ha proposto a Bruxelles l'introduzione di una tassa europea sulle transazioni finanziarie, accogliendo l'iniziativa del presidente della Commissione, Giuseppe Barroso. La libertà di movimento garantita da Schengen è una conquista tanto importante per l'Europa che nessuno ha il diritto di metterla in pericolo per le sensibilità nazionali, così la cancelliera tedesca Angela Merkel. I 27 Stati membri dell'Unione hanno completato la procedura di silenzio assenso sulla terza tranche di sanzioni contro la Siria. Nel nuovo pacchetto di misure si colpiscono anche 3 cittadini iraniani accusati di aver aiutato il regime nella repressione contro i manifestanti. La Francia comincerà un ritiro graduale delle proprie forze in Afghanistan in modo proporzionale e con un calendario simile al ritiro delle forze americane, lo ha annunciato l'Eliseo con un comunicato. La dichiarazione della presidenza francese fa seguito all'annuncio da parte del capo della Casa Bianca, Barack Obama, di un ritiro entro l'estate 2012 di un terzo delle forze americane in Afghanistan, pari a 33.000 uomini. We will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year. I primi 10.000 uomini rientreranno a casa entro la fine dell'anno, altri 23.000 entro la prossima estate, i rimanenti entro il 2014. Così Barack Obama saluta l'inizio del ritiro dall'Afghanistan. In tutto sono 100.000 i soldati americani presenti nel paese. Una scelta vista con favore dal presidente afghano Karzai. Diversa invece la replica dei talebani. Che vi sia una forza grande o piccola, noi continueremo la nostra jihad fino a che l'ultimo soldato straniero non avrà abbandonato la nostra terra. Anche la Francia intanto annuncia un rientro graduale delle sue forze. Conferme sul calendario del ritiro studiato dalla NATO arrivano anche da Australia e Italia. I 1.500 australiani resteranno nella provincia di Uruzgan fino alla fine del 2014, mentre l'Italia procederà a un ritiro graduale del suo contingente di 4.200 uomini. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere gli spettacoli, sono un pianista e un violinista, hanno studiato nelle più grandi scuole europee, Teatro alla Scala di Milano, Mozarteum di Salisburgo, Royal Academy di Londra. Nel 2009 sono stati invitati a suonare al Palazzo Reale di Monaco di Baviera da George Michael. Lorenzo Materazzo e Luca D'Alberto, gli ex Wave, sono al loro secondo album che si intitola Plagiarism. Perché? Marta Cagnola lo ha chiesto a Lorenzo Materazzo. Per noi il concetto di plagio è fondamentale, per noi è sia un motivo di ispirazione sia una sorta di provocazione verso proprio il mondo della musica di oggi. Oggi è veramente difficile essere originali, creare qualcosa di nuovo. Perciò noi siamo partiti invece proprio da questo punto, cioè abbiamo detto cerchiamo di ispirarci a qualcosa che è già stato fatto, prendendo spunto, no? Quindi dallo stile di un gruppo piuttosto che da un altro. E per noi significa cercare di rielaborare le cose che ascoltiamo da sempre, filtrandole, ecco, proprio con le nostre conoscenze di musica classica, di musica un po' più colta. E per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo la giornata conclusiva a Bruxelles del Consiglio europeo di 27 leader. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre per l'assistenza in regia a Mauro De Angeli. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.